Amici, amici qui, in Palermo e te, mi salutati a Dabe da citati, mi salutati frati e l'amici, e pur a da vicchiare da te. Me maci adi me maci spiatini di mia chi si ni dici si li me così si no coitati già chi si voli Dio come si dici di nuovo c'hai a dire a libertati a libertati.